avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire. Già qualcuno m'ha scritto su Facebook vedendo l'argomento di oggi: vabbè, che noia, cambio, vado a vedere un'altra cosa, vado a un telefilm. Oggi però voglio dare un senso a questa sorta di reliquia vetusta che appartiene a un passato lontano, questo 2.0 che è rimasto lì in appendice a Melog, non so nemmeno io perché. Il 2.0 dovrebbe dare il senso che è una trasmissione che si occupa comunque di quello che è il web partecipativo, il web di ultima generazione, ma era di ultima generazione 4-5 anni fa. Oggi appartiene comunque a, come tutti i termini usurati dall'uso improprio e diffuso viene fatto, appartiene a un passato, è qualcosa che già mi sa di vecchio. Però oggi voglio parlare di qualcosa che riguardi la rete. Il mio lavoro alla radio nasce con una precisa e curiosa attenzione al mondo della rete, saranno ormai 15 anni abbondanti, che osservo quello che accade nel mondo sempre meno parallelo oggi della cultura della rete. Non parlo più specificamente della rete perché ormai parlo del mondo, parlo della realtà, parlo degli esseri umani, visto che se Dio vuole finalmente la rete si sovrappone in maniera abbastanza esatta con quello che è la società concreta. Ma al di là del fatto che esistono ancora persone che si proclamano il popolo della rete, il popolo del web sono le colf che tutte le mattine vedo con il loro smartphone dentro la metropolitana, adesso che la tratta meravigliosa Piazza della Repubblica, Piazza di Spagna è collegata in rete anche a Roma, velocissime in quel 5-4-5 minuti, digitano velocissime, sono loro il popolo della rete. Il popolo della rete sono tutte le signore e i signori che ogni mattina arrivano in ufficio e subito si piazzano su Facebook e guardano le novità. Sono loro il popolo della rete. Il popolo della rete sono tutti quelli che oramai negli internet caffè, negli uffici e nei luoghi di frequentazione, ma anche dentro casa propria, hanno un computer acceso e comunque interagiscono con altri esseri umani. Ormai la rete è l'umanità e sono più o meno la stessa cosa. Ma evidentemente di questo se ne stanno un po' accorgendo tutti, e c'è una questione che è sorta all'onore delle cronache di cui si dibatte molto in questi giorni, tanto che e domani sarà anche una manifestazione nel centro di Roma dove appunto il popolo della rete ancora una volta protesterà contro questa cosa. Per l'esattezza cerco di tagliare il più possibile la parte tecnico-burocratica perché non mi compete, non è mia materia, non mi piace parlarne. Il nome, diciamo, di questo oggetto del contendere si chiama comma 29. Il comma 29 appunto è quella piccola parte del DDL Alfano sulle intercettazioni che mette i blog sullo stesso piano dei siti di informazione e impone una velocissima rettifica rispetto a ciò che viene scritto sui blog, con una serie di normative che non ha soddisfatto, perlomeno ha molto inquietato, una serie di persone. Questa mattina ne voglio parlare, voglio parlarne proprio perché mi piace rifare un punto proprio sulla rete. Mi piace parlare di rete questa mattina, vedere quanto è cambiato ciò che avevamo detto semplicemente con gli amici che presto sentirete 3-4 mesi fa, perché è un universo in continua mutazione e devo capire quanto lo strumento legislativo, che è molto antiquato soprattutto nel nostro paese, si sia reso conto di come stia cambiando questo mondo, se veramente lo tema come molti dicono e quindi prende dei provvedimenti per arginarlo, per fermare il moto di libertà, il moto di spontaneo desiderio e diritto naturalmente di esprimere un parere, o semplicemente in maniera raffazzonata, sommaria, visto che non sa di cosa parli, applica le stesse normative, le stesse regole, le stesse cautele che ha sempre applicato, dall'incisione cuneiforme alla carta stampata, a tutti i supporti del sapere, dell'opinione, il modo di esprimersi degli esseri umani. C'è poi, nel testo all'esame della Camera, la norma ammazza blog. Per i siti informatici scatta l'obbligo di rettifica entro 48 ore dalla richiesta. Basterà cioè una semplice richiesta della persona citata, che avrà diritto alla rettifica senza diritto di replica da parte del blog o del giornale periodico diffuso per via telematica, pena una multa che può raggiungere i 12.000 euro. Questo, diciamo, è la sintesi che abbiamo preso da Notiziario, che se ne sta parlando molto di questo tipo di espressione. Vi invito intanto a cominciare a chiamare chi fosse interessato, chi si è posto problema, chi si prepara ad andare a manifestare domani a Roma, o chi comunque ha strumenti per riflettere su questa fattispecie, che non è del tutto sommaria e indifferente. Bisogna capire quanto ancora ci sia delle aree di non allineamento fra mondo concreto e mondo della rete. Io sono convinto che presto diventeranno esattamente la stessa cosa, come li vedo io. Ma proprio per dare alcuni elementi in più di questo argomento, si è parlato sia in rete che in televisione. Vi faccio sentire innanzitutto quello che è il punto di vista di un blogger, che riassume, diciamo, il pensiero più orientato verso l'idea che esista ancora un popolo di vergini vestali che tengono accesa la sacra fiamma della rete e quindi si ribella a questa sorta di bieco attacco che viene appunto dal mondo concreto, che non capisce questa differenza, questo spirito di libertà, questa forza espressiva che ha la rete. Sono 48 le ore che il governo concede a chiunque pubblicherà contenuti che non piacciono per rimetterci mano e ammettere le proprie colpe. Scaduto l'ultimatum, sarà possibile ricevere multe fino a 12.000 euro. E attenzione, il nuovo DDL intercettazioni che il governo è pronto a presentare non prevede repliche. Se lo fai e qualcuno, chiunque, te lo fa notare e avvisa chi di dovere, hai 2 giorni per rimuovere i contenuti o chiedere scusa e rettificare. Poi paghi, volente o nolente, e non importa se avresti tutto il diritto di farlo, non importa se quello che pubblichi ha portata nazionale o individuale, perché anche se hai un blog che leggete tu e 4 gatti e scrivi a basso Berlusconi o chi per lui, devi cambiare idea. Nessuna autorità garante avrebbe il potere di difenderti, o lo fai o non lo fai e affronti le conseguenze. Una norma che di fatto punta a controllare la rete e a farci diventare carogne, che punta a dividere il paese per rafforzare il potere, come era nella Berlino divisa del dopoguerra, quando pur di salvarsi la pelle... Non era mio quel respiro il sottofondo, ma evidentemente per attribuire maggior pathos alle sue parole, questo blogger ha messo un effetto di essere umano soffocato, ovviamente era la persona col bavaglio che parlava. Ma proprio per dare un quadro preciso, anche perché non ho trovato rappresentanti istituzionali che mi venissero a parlare di questo, di questa cosa qua. Evidentemente viene considerato uno degli elementi accessori rispetto al dibattito che sta infiammando questi giorni proprio sulle intercettazioni. Non ci interessa stamattina parlare di intercettazioni, ma ci interessa parlare di questa piccolissima e trascurabile appendice che però tocca molto il popolo della rete. Questo è quello che è stato detto l'altra sera a Porta, quando Bruno Vespa parlava appunto con Giorgio Mulè, direttore di Panorama, di questa cosa. Il punto sul quale forse vale la pena soffermarsi è il probabile obbligo per i blog di fare le rettifiche, insomma, perché internet è uno strumento assolutamente meraviglioso, ma è una condanna all'ergastolo, nel senso che una cosa che sta su internet poi ci sta per tutta la vita, voglio dire. Quindi su questo siete tutti d'accordo o no? Ma che la rete sia diventato, come dire, un grande strumento, come al solito anche in questo caso, l'abuso che se ne è fatto della libertà straordinaria su internet ha portato a una vera e propria diffamazione sequenziale e seriale, l'ultima di pochi giorni fa con quell'elenco di parlamentari accusati di essere omofobi e gay. Quindi è uno strumento peraltro di diffamazione che non ha molto spesso un terminale. Si dice che questo significa comprimere la libertà del blog. In realtà significa equiparare chi si prende la responsabilità di postare, cioè di scrivere in rete alcune cose, una responsabilità che, come c'è un giornalista, è giusto che abbia chi, come dire, esprime giudizi o racconta come fatti e verità. Questo era Giorgio Mulè, direttore di Panorama. Mi viene in mente subito una piccola riflessione: accusati di essere gay, non è una colpa essere gay, si può essere accusati, nel caso semmai è violata il proprio diritto alla riservatezza delle proprie scelte sessuali. Essere omofobi molte volte è una realtà di fatto, quando uno si esprime in maniera omofoba pubblicamente può essere il suo punto di vista, ma si esprime in maniera omofoba è un pensiero omofobo. Andrea Rossetti, buongiorno. No, ciao a tutti. Andrea Rossetti, professore di filosofia del diritto all'Università di Milano Bicocca, docente di informatica giuridica, nostro ospite abbastanza frequente sui problemi di rete. È un po' che non ci sentiamo, ma questa volta vale la pena forse di rifare un punto. Un tuo primo giudizio: io ho messo, diciamo, un parterre di opinioni prese qua e là che dovrebbero più o meno rappresentare i vari punti di questo dibattito. Vediamo come puoi chiarirci meglio però te esattamente di cosa si tratti. Sì, direi che il punto della situazione è stato fatto. Quello che preoccupa un po' tutti coloro che si occupano di queste cose è l'ambiguità del testo normativo, in cui appunto si dice che i siti, non meglio specificati, hanno questo obbligo di entro 48 ore di rettificare quello che hanno scritto. È davvero una cosa pesante. Insomma, io ad esempio sono il direttore di una rivista di recensioni filosofiche ormai da più di 10 anni e talvolta gli autori mi chiedono di togliere una recensione o di pubblicare integrazione la recensione che magari non è stata favorevole. Io in alcuni casi semplicemente mi oppongo perché credo che le richieste del recensito non siano sensate. Ecco, se questa legge passa, in realtà io dovrò automaticamente pubblicare ogni richiesta di rettifica da parte di un recensore, di un autore di un libro che si sente in qualche modo offeso o mal rappresentato alle parole dei recensori che scrivono per la mia rivista. Mi senza commento, come dice l'antica legge del 48 sulla diffamazione a mezzo stampa. Sì, esattamente. No, la cosa ancora più inquietante è appunto, mentre per prepararmi un po' alla trasmissione sono andato a vedere un po' gli atti parlamentari, peraltro, e peraltro la nona commissione permanente trasporti, poste e telecomunicazioni nella sua relazione evidenzia esattamente questo problema e dice anzi che nel testo si dovrebbe specificare a chiare lettere che quello che viene detto si riferisce unicamente alle testate soggette all'obbligo di registrazione previsto dalla legge sulla stampa del 1948. Quindi diciamo i siti online dei quotidiani, tanto per siti online del quotidiano o tutte quelle entità che hanno la pretesa di avere, di essere delle riviste, di essere dei giornali. Insomma, ci sono anche dei giornali, non so, mi viene in mente ad esempio una rivista, un giornale famoso, Punto Informatico, ad esempio, Punto, che semplicemente è un faro per tutti gli appassionati, esatto, di novità, è un giornale serissimo, Punto Informatico. Cioè, non ha nessuna cotecca cartacea, però è a tutti gli effetti un giornale, è un editore. Ecco, a entità come queste, allora tutto sommato può avere senso applicare questa legge. Ma quindi varrebbe anche per Facebook, in teoria. Allora, la cosa inquietante è perché questa, oggi, no? Il social network è il luogo di maggior dibattito e anche dibattito acceso e anche, se vogliamo, terra di insulti che esista almeno nel nostro paese. Vale per Facebook questa norma? La parola sito è davvero ambigua in questo non senso. Non esiste, no? Più sito, che vuol dirsi? Però appunto nella legge è scritto sito. Allora io adesso ho installato, come molti credo, no, la nuova versione di Facebook, quella timeline, che è la mappa della nostra vita, fra l'altro. E sembra davvero una delle pagine personali che venivano fatte nella seconda metà degli anni 90, in cui uno rappresentava la sua vita. Quello è un sito oppure no? Sicuramente. Spieghiamo meglio, Andrea. Dunque, dal primo ottobre Facebook presenterà quella che è la sua grande svolta. Diciamo, tutto il materiale che noi abbiamo messo nel nostro profilo Facebook sarà immediatamente riportabile in superficie, esatto, attraverso una ricerca. Quindi ogni post, ogni messaggio, ogni nostro pensiero, ogni provolonico indugiare, ogni seduzione, ogni insulto, è tutto presente, non c'è più nulla che è scomparso, non ci illudiamo, riviene tutto fuori. Esatto, e addirittura potrò mettere un'immagine, oltre all'immagine del mio profilo, alla mia faccia, potrò mettere anche un'immagine che mi rappresenta in qualche maniera come sfondo, in qualche maniera, della mia pagina. Sembrano davvero le home page personali che venivano fatte all'inizio degli anni 90 appunto per raccontare la propria vita. Però è un po' diverso, qua sotto c'è un database, allora erano vecchi siti costruiti in maniera statica, era tutto lì. Peraltro, spesso. Sì, no, chiaramente la struttura tecnologica è completamente diversa, naturalmente. Però è giusto quello che dice Vespa. Rimane per sempre dentro quello che uno ci mette. rimarrà per sempre, e questo è uno dei problemi, insomma, perché si è visto ultimamente, no, che in questa svolta tecnologica di Facebook in realtà permette a Facebook, o meglio ai cookie che Facebook mette sul nostro computer quando ci connettiamo, di monitorare la nostra attività anche quando non siamo direttamente connessi a Facebook. Questo è effettivamente una cosa un po' inquietante, però è proprio un altro argomento, direi. Dicevo, no, appunto, una pagina di questo genere è un sito oppure no? Ripeto, quello che fa più paura di questo, del testo di questo articolo 29 è l'ambiguità con la quale è scritto, perché in questo modo si applica veramente a qualunque cosa possa essere pubblicato su quella parte di rete che si chiama web. Quindi ancora una volta, Andrea, mi dice che più o meno all'inizio abbiamo detto una cosa abbastanza sensata, quando non vogliamo tenere una posizione immediata su questa cosa qua, quindi non vogliamo prendere nessuna posizione, però non possiamo fare a meno di notare che il legislatore, quando mette mano ancora a questa diffusa idea digitale, si muove in maniera un po' improvvisata, sembra non aver sempre gli strumenti per poterlo fare. Non capisce, perché un po' come l'ultima registrazione che hai fatto sentire di Muleno, ha fatto l'osservazione che chiunque smanetti, come si dice, un po' in sa benissimo che sono insensate, perché se io davvero voglio mettere un contenuto in maniera da non poter essere rintracciato in rete, lo posso tranquillamente fare. Cioè, questo decreto, questo provvedimento in realtà non colpirà davvero quelli che hanno intenzione di diffondere informazioni in maniera anonima. Infatti, ha citato la famosa pagina dell'outing di cui abbiamo fatto una puntata venerdì, che sulla quale nessuno può agire perché sembra che sia in Canada, non so bene adesso in è quale. È stato fatto su un sito californiano. E peraltro, appunto, dal momento che là il primo emendamento in America, che è quello che permette la libertà di espressione, viene preso davvero sul serio, nessun provider americano ti darà mai l'indirizzo IP che ti permette di identificare chi ha caricato quella pagina, perché comunque in quella pagina, anche se discutibilmente, vengono raccontati dei fatti, vengono esposte delle opinioni. E la cosa che a me ha inquietato, appunto, di quello che è stato detto da alcuni, adesso non ricordo precisamente a chi, è questa idea che in qualche modo la libertà di parola vada limitata. La libertà di parola è già limitata, nel senso che se io diffamo qualcuno c'è una legge sulla diffamazione, appunto, che si applica online, offline, per strada. Sì, la diffamazione comunque è lungo l'iter processuale, ma in 4-5 anni, se sei diffamato, comunque vieni risarcito, posso dirlo sulla mia persona, sì, perché ho recentemente visto che funziona. No, ovviamente è un problema di patologia del funzionamento della giustizia, sì, in Italia, no? Questo, però dal punto di vista veramente teorico, lo strumento per tutelarsi da coloro che parlano di noi in rete c'è già, ed è la diffamazione. Sentiamo qualche ascoltatore. 800 24 0024, perché l'argomento, al di là delle mie fosche previsioni, interessa. Mauro, buongiorno. Sì, buongiorno, ma sono stato preceduto dalla persona che ha parlato prima di me, ma sostanzialmente la dichiarazione di Mulè è illuminante. Lui parla di abuso di libertà. L'abuso di libertà è una contraddizione in termini. La libertà tautologicamente libera non può contemplare abusi. A questo proposito mi viene in mente una sequenza del film Un borghese piccolo piccolo, in cui Alberto Sordi sta facendo il giuramento per entrare nella massoneria. Certo. E gli viene chiesto: ma che cos'è la libertà? E lui dice: la libertà è una bella cosa, peccato che ce n'è troppo. L'abbiamo più volte commentata questa frase, certo, nel punto di vista, sì, prima della prova del veleno gli danno poi l'amaro Montenegro, dice questa frase illuminante che è la chiave di tutto il film. Infatti, Mulè ha detto la stessa cosa. Poi. Adesso però non mettiamo al mezzo Mulè perché non è qui presente, avevo citato un pezzo di Porta a Porta, poi è stato più articolato il discorso. Sì, però è indicativo comunque dell'idea che la rete sia qualcosa di estremamente pericoloso da conservare, da contenere. La rete è qualcosa che sta evolvendo, non credo che la rete sia il luogo eccelso della democrazia e del libero pensiero, è qualcosa che sta crescendo, sta formandosi, sta organizzando. Sentiamo Giuseppe. Sì, buongiorno Nicoletti. Sì. Io sono, diciamo, su internet dal 1996, quindi bene o male ho visto un po' l'evoluzione di tutto il sistema, e mi sembra che questa norma che vogliono attuare sia veramente incredibile, perché, cioè, a me capita, che ne so, di scrivere delle piccole review su prodotti di elettronica, scrivo male della nuova fotocamera Canon, la Canon Italia si arrabbia con me, mi manda l'ingiunzione di togliere quello che ho scritto e io devo toglierlo immediatamente. Insomma, diventa come le revisioni sui giornali o su... Non esisterebbero più dei siti di commento sui prodotti a questo punto di vista, perché chi costruisce il prodotto può chiedere sempre rettifiche. Non posso più fare una prova su strada di una console o di un computer o di un'automobile, di una motocicletta, o raccontare semplicemente se mi piace o non mi piace un certo prodotto della cucina, perché se chiunque può chiedermi di rettificare, devo rettificare senza ribattere, evidentemente non è più possibile esprimere il minimo di editoria in rete. Questo è il punto di vista di chi sta in rete. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une 800 24 00 24. Entriamo subito in merito a quello di cui stiamo trattando dalla prima parte della trasmissione. È il famoso comma 29 del DDL Alfano sulle intercettazioni, che mette i blog sullo stesso piano di pubblicazioni giornalistiche, testate registrate, e quindi impone degli oneri di rettifica anche ai blog, che non piacciono evidentemente a chi si esprime quotidianamente in tutti i modi, in tutte le maniere e con la massima libertà anche in questo tipo di supporto della memoria, del sapere e via dicendo. Sentiamo subito l'ascoltatore Sergio, rispetto a quello che diciamo prima, ad aggiungere qualcosa. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, io volevo semplicemente fare una considerazione, no? Mio padre mi ha insegnato che la libertà, la nostra libertà, finisce dove comincia la libertà dell'altro. Allora io mi faccio una domanda: per quale motivo queste persone devono essere, diciamo, libere di dire effettivamente quello che si vuole, anche contro quella che noi riteniamo la nostra onorabilità, il nostro intendimento delle cose, i concetti che noi riteniamo giusti o sbagliati? Per quale motivo questi signori devono essere liberi di non avere nessun tipo di responsabilità nei confronti delle cose che dicono e affermano? Sergio, questi signori siamo anche, cioè anche noi, non consideriamo chi si muove in rete come una sorta di tribù ribelle e clandestina, cioè chiunque oggi può farlo anche lei. Rispetto a quello che è la sua domanda, già l'aveva detto il professor Rossetti prima, che nel caso che qualcuno diffami qualche altra persona esistono tutti gli strumenti tranquilli, regolari e ordinari della giustizia civile, penale, per procedere. Se io la diffamo e dico Sergio è un ladro e lo scrivo nel mio blog, lei può comunque denunciarmi. E lo scrivo nel blog come se lo scrivo sul muro, come se scrivo. Qua è un po' diverso, qua è applicare l'obbligo di rettificare quello che uno ha scritto su strumenti che in realtà è molto difficile poi identificare anche l'autore e la matrice. Ve ne è stato fatto un esempio, è sufficiente pubblicarlo in un internet provider che in un altro paese, dove mai daranno informazioni rispetto a chi pubblica, e quindi è molto difficile. Ma volevo su questo chiedere un altro parere. Ho al telefono il professor Guido Scorza, che è avvocato e docente di informatica giuridica alla Sapienza di Roma. Professor Scorza, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Ecco, vorrei che anche lei ci aiutasse un po', integrando quello che ha già detto il suo collega, che è ancora in ascolto, professor Andrea Rossetti della Bicocca di Roma. Come vede, è un po' difficile definire il tema, anche difficile a far capire, perché giustamente, come l'ultimo ascoltatore ci ha detto, diciamo, perché deve avere qualcuno la libertà di compiere un reato che altrimenti viene perseguito. Non è esattamente così. Ma io infatti inizierei proprio con il dissipare un attimo questo dubbio che diventa talvolta assordante, confermando quello che diceva prima. Non c'è una zona franca in cui si possono compiere reati che altrimenti vengono perseguiti, questo deve essere chiaro. Non esiste, non è mai esistita, ma soprattutto non è quella che rivendica chi in queste ore sta con forza dicendo che quella norma non deve entrare a far parte del nostro ordinamento. Noi stiamo discutendo soltanto di uno specifico istituto, stiamo discutendo soltanto di procedura sostanzialmente, stiamo cercando soltanto di dire che estendere ad un produttore amatoriale di informazione, ad un soggetto che per hobby comunica attraverso internet, ma che per mestiere, non fa né l'editore né il giornalista, obbligo di correggere un suo eventuale errore entro 48 ore sotto pena di una sanzione di 12.000 euro, significa mettergli un cerotto sulla bocca e significa soprattutto contraddire la natura stessa dell'istituto della rettifica. La rettifica nasce perché, come dire, sia la buona informazione quella che alla fine rimane, quella che trionfa. Ecco, con questa norma che si vorrebbe introdurre nell'ordinamento non sarà più così, e non sarà più così per una ragione, come dire, tutta legata alla procedura, nel senso che è ovvio che se io richiedo ad un giornale la rettifica si innesca un meccanismo all'interno della redazione di quel giornale, all'interno dell'editore, che va innanzitutto a verificare se chi mi chiede la rettifica ha davvero diritto ad ottenerla, se davvero ho sbagliato il giornalista o se piuttosto se semplicemente qualcuno infastidito, magari a torto, dal fatto che si dica una verità che non gli piace. Ma infatti spesso sono dei grandi boomerang le rettifiche richieste sui giornali. Se è bravo, diciamo, il direttore del giornale, diventa una sorta di martellata sulle palle di chi la chiede, naturalmente. E infatti stiamo parlando di un istituto che, tra l'altro, come dire, è dubbio funzioni persino per i media in relazione ai quali è stato realizzato. Ma ecco, però fa parte del mestiere questo. Lì fa parte del mestiere. Viceversa, chiedere la rettifica ad un blogger, far arrivare davanti ad un cuoco che parla di cucina e che ha commentato una ricetta di un altro cuoco, una mail nella quale gli si dice mi stai offendendo, o rettifichi o sei soggetto ad una sanzione di 12.000 euro, significa inesorabilmente, ammesso anche che quell'email venga letta nelle 48 ore, ma inesorabilmente porre il cuoco blogger nella condizione di dire o io rimuovo o pago 12.000 euro, sai che c'è, io rimuovo, che chi mi chieda la rettifica abbia torto o abbia ragione, abbiamo snaturato l'istituto. O peggio, non scrivo più. Io ho aperto nella vita, non so, 20-30 aree web a mio nome, molte sono seppellite, nemmeno mi ricordo dove, nemmeno ricordo le password per amministrarle. Questo è il vero problema molti. E questo naturalmente, come dire, non può essere un obiettivo per nessuno che abbia a cuore l'informazione che va online, cioè veder diminuire i soggetti che informano e che producono informazione online, penso che sia, come dire, lo scenario peggiore. Però ribadiamo, professore, il concetto che in realtà anche il più modesto dei blogger non può compiere reati di diffamazione e non essere perseguito. Nessuno può sottrarsi, soprattutto in rete, alla responsabilità per un contenuto che ha pubblicato. La responsabilità è civile, la responsabilità è penale, gli strumenti esistono. Non stiamo dicendo neppure che quell'informazione debba restare online, e così facciamo piazza pulita anche dell'altro grande equivoco di queste ore. Perché si gioca proprio sugli equivoci, sul fatto, si fa finta di non aver capito, questo è il problema. Ecco, insomma, anche la trasmissione porta a porta l'altra sera dice sì, ma quanto fa male un'informazione non corretta che resta online per sempre. Ecco, nessuno auspica che quell'informazione, se non corretta, resti online per sempre, ma se ci resta anziché per 48 ore per 10 giorni, evidentemente forse siamo andati verso una disciplina di equilibrio, abbiamo dato qualcosa di più al sistema dell'informazione, non gli abbiamo tolto nulla. Ecco, è di questo che nella realtà stiamo discutendo. Nessuno auspica una sorta di possibilità o licenza di delinquere o di offendere assoluta nella blogosfera, insomma, ecco, non va quella non è la direzione che nessuno... Ma lei come la vede, professore? Lo vede come un atto di malizia ben precisa? Tanto, per lei è il suo parere, poi io rispetto il suo parere, oppure lo vede semplicemente, come avevo detto io all'inizio, che ancora non sa bene cosa sia questa materia, come diceva Rossetti, hanno detto sito oggi, cos'è un sito? È un indirizzo web, il social network allora cos'è? Un sito? È un'area? Twitter cos'è? Io posso diffamare attraverso Twitter, posso dire quello che voglio, rientra in questa normativa? Devo dire che c'è un po' dell'uno e un po' dell'altro, c'è un legislatore goffo e in senso tecnico ignorante che non conosce le cose della rete, c'è indubbiamente però questo timore che l'informazione in rete possa essere davvero libera e sfuggire al controllo, ce lo dice esattamente il comma 29, quello del quale stiamo discutendo. Ricordava prima giustamente il professor Rossetti, in realtà è lo stesso Parlamento che a un certo punto in commissione comunicazioni alza le mani e dice però questo obbligo va bene anche in relazione all'online solo ed esclusivamente in relazione alle testate telematiche. Ecco, l'opposizione, quindi come dire, il fuoco incrociato dell'opposizione nell'ultimo, a luglio del 2010, quando questo testo è arrivato in Parlamento per l'ultima volta, ha provato ad intervenire e lo ha fatto in maniera ancora più perversa, perché oggi la norma dice: per i siti informatici, ivi compresi giornali, quotidiani e periodici diffusi per via telematica. Dovrebbe essere esattamente il contrario. Esattamente il contrario, ma nel tentativo, è questo, come dire, è la cartina di tornasole. Infilarcelo dentro all'ultimo momento. Non capiscono esattamente. Ma anche perché, scusi, poi chiudiamo, devo lasciare la linea al traffico. Il sito informatico di una grande testata è gestito dalle stesse persone che gestiscono la testata. Lì non c'è problema, sono immediatamente vigili, attenti, e sarà nel loro interesse comportarsi esattamente come si comporta sul cartaceo. Molte volte è l'equivalenza della pagina cartacea, con qualche rubrica in più, approfondimento in più, contenuto premium in più, ma lì non ci dovrebbe essere problema. È superfluo legislare, fare delle leggi su ciò che già esiste, secondo me. È assolutamente pacifico che la legge sulla stampa si applichi anche alle testate telematiche, anche perché le testate telematiche vengono registrate in forza della legge sulla stampa, quindi lì non serviva assolutamente. È lo stesso direttore responsabile, la stessa linea di comando molte volte di un giornale, quindi non c'è problema. Grazie. Grazie professore, la ringrazio, so che lei deve andare. Sentiamo Rudy velocemente. Rudy. Sì, io volevo dire solo due cose. Una, avete citato l'abuso di libertà. Volevo dire che l'abuso può esistere, l'abuso di libertà, perché se così non fosse, una persona per assurdo sarebbe libera di uccidere, per esempio. E invece gli stati hanno stabilito dei limiti alle libertà proprio per garantire la parte rimanente di libertà, cioè per esempio il diritto di vivere. Sì, ma qua stiamo parlando di libertà di espressione del pensiero, non libertà di azione. È chiaro, è libertà di espressione del pensiero, di questo parliamo. Però in proporzione anche quella ci sarà un limite. C'è il limite quando uno può esprimere un pensiero, ma quando esprimendo il suo pensiero crea un danno psicologico, un danno materiale, un danno alla rispettabilità di un'altra persona, compie un reato, quindi e viene perseguito, la sua espressione ha creato un danno a un'altra persona e quindi per questo viene perseguito. Quando on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour. 800 24 00 24, vedo che occorre ancora rifare un punto, perché non mi sembra molto chiaro, mi sembra un po' confuso, almeno negli ascoltatori che ho sentito al telefono, su quello che è il concetto di libertà rispetto alla possibilità comunque di creare un danno alla personalità di un'altra persona, al patrimonio di un'altra persona, alla compattezza psicologica di un'altra persona. Andrea Rossetti, professore, ricordo, di filosofia del diritto all'Università di Milano Bicocca e docente di informatica giuridica, e prima di tutto melogmane nella cerchia più elevata. Andrea, cerchiamo di capire meglio, perché vedo che c'è ancora un po' di, da una parte chi frequenta poco la rete dice sembra che ci sia dentro una sorta di pirati e corsari che vogliono soltanto dare l'assalto alla rispettabilità altrui, d'altra parte c'è chi considera ancora la rete come una sorta di territorio in cui ci sia questo senso incommensurabile la libertà di espressione e democrazia. Troviamo la giusta maniera per descrivere l'attualità. Non è oggettivamente facile, perché come dicevi tu, quando si parla di queste cose si parla di oggetti che sono in continuo movimento e mutazione. La rete, quando tu ed io abbiamo iniziato ad andare in rete, ossia a metà degli anni 90, si era veramente poche persone e tutti coloro che agivano in questo contesto erano motivati dal fare bene in qualche maniera, da dimostrare che il meccanismo funzionava. Con l'esplosione della rete è successo che sono entrate un sacco di persone che non sentono responsabilità rispetto a quello che fanno in rete, ma come abbiamo detto, in primo luogo in rete valgono esattamente le stesse leggi che valgono nella vita di tutti i giorni, non c'è un mondo virtuale che si contrappone a un mondo reale, non c'è una vita virtuale, no? Ci si può nascondere di più di quanto si possa nascondere il mondo concreto, questo sì. Ci si può nascondere di più, però non dimentichiamo le lettere anonime ad esempio, no? Certo. Anche qui, se io ho una comunicazione anonima, saprò che dovrò prenderla con determinate precauzioni, perché non so chi è l'autore. Non dimentichiamo che in fondo l'autorialità, cioè il poter attribuire una notizia a una persona piuttosto che un'altra, un'opinione a una persona piuttosto che un'altra, altro, è fondamentale per poterci orientare. Se non siamo esperti di quello specifico, quello campo, poi mi sembra che le persone sono più colpite, il cosiddetto danno alla personalità, alla rispettabilità. Io posso sputtanarti e mettere lo sputtanamento in un provider che tu non puoi toccare, fare nulla, e rimane lì eternamente scritto, certo. Rossetti pensate, non si lava, che ne so, adesso dico una stupidaggine, capito? Ma pensate però a quello che avveniva ad esempio in un piccolo paese in cui la chiacchiera veniva, se qualcuno veniva chiacchierato gli venivano attribuiti delle cose, degli atti che lui non faceva, delle abitudini che lui non aveva, anche quello, la reputazione di quella persona in quel paese, in quel piccolo contesto, era completamente andata, era completamente rovinata, senza possibilità di essere rimediata. Qui in realtà in rete ci sono strumenti per cancellare, gli strumenti sono anche molto efficienti, nel momento in cui ci si rende conto che effettivamente è stato compiuto un atto contro qualcuno, ci sono gli strumenti per quantomeno, se non risalire all'autore di questa diffamazione, ci sono gli strumenti per fare in modo che addirittura questo, il commento non compaia più nei motori di Google, non compaia più nei motori di ricerca. Quindi effettivamente la tutela che viene fornita è, dal punto di vista concettuale, alta. È chiaro che qui si innesta una tecnologia che è ancora per larga parte non studiata, di cui ancora per larga parte non si capiscono davvero le implicazioni, e quindi ci possono essere dei problemi tecnici. Però anche qui non è che possiamo, insomma, il cellulare in fondo permette, credo, a coloro che fanno i pali nelle rapine degli appartamenti di avere uno strumento formidabile per comunicare quando la polizia sta arrivando, però a nessuno viene in mente di vietare la telefonia cellulare perché può essere usata come strumento per compiere potenziali reati, no? Anche qui si tratta di normare, è un fenomeno estremamente nuovo, la rete, l'uso della rete si diffonde in Italia e in Europa dopo gli anni 2000, quindi siamo di fronte a un fenomeno che ha una decina d'anni, dobbiamo avere un po' di pazienza, è chiaro che non è semplice, però le prossime generazioni probabilmente riusciranno a fare un lavoro che noi semplicemente non abbiamo, non riusciamo ancora ad immaginare. Io sono convinto, Andrea, che andranno azzerati alcuni punti fermi che consideriamo non negoziabili rispetto proprio alla nostra privatezza. Noi, se ci siamo messi ormai a corpo morto e abbiamo distribuito una parte fondamentale del nostro privato alla rete per divertimento, per gioco, per diletto, per seduzione, per follia, via dicendo, non possiamo più tornare indietro, non possiamo più pensare che a nostro piacere si possa riabbassare la saracinesca e tutto questo scompaia. Sentiamo Guido un attimo. Guido è morto. Sentiamo Marco. Pronto? Eccomi. Sì. Salve, sono Guido. Ah, Guido, ecco, ritornato. Guido, lei ha una domanda interessante, lo sa perché? Perché dopo le dico, perché mi coinvolse in passato personalmente. Prego. Allora, io ho un piccolo blog di cui disserto, soprattutto parlo di un minimo così di filosofia spicciola, un po' di poesia, e poi è aperto il blog, cioè chiunque può venire a commentare su questo blog le cose che scrivo senza nessun tipo di problema, non è moderato il commento. Ora, nel momento in cui qualcuno scrivesse sul mio blog qualcosa che potrebbe dar fastidio ad un altro o a qualcos'altro, io non è che apro tutti i giorni, leggo tutti i giorni, quando sono in ferro lo tengo chiuso. Cioè io sono responsabile, dice. Esatto. Sentiamo, cioè, adesso Andaro, se non mi riguarda, perché mi ricordo anni fa chi voleva farmi del male mi accusò perché in un blog che gestivo io, in un vecchio posto, postarono un link a siti zozzi dicendo, ah vedi, c'era questa cosa qua, che è impossibile da parte mia poterlo controllare. Andrea Rossetti. No, qui la giurisprudenza non è ancora consolidata. Non si sa, infatti. I giudici non decidono mai nella stessa maniera, comunque non c'è ancora, tendenzialmente, per la verità, ultimamente i giudici tendono a considerare i commenti come non responsabilità del gestore del sito, che è, secondo me, la cosa effettivamente sensata. È anche vero che se il gestore del sito viene avvertito e non rimuove il commento potenzialmente infamatorio, allora è chiaro che a quel punto diventa responsabile, però anche qui, cioè, si può capitare dal giudice che ti condanna comunque perché ti ritiene responsabile di tutto quello che avviene sul tuo sito, anche nel momento in cui tu però non hai l'effettivo controllo. Qui, anche qui, cioè, si può dare un consiglio, ovviamente, no? Che è banalmente quello di fare in modo che i commenti siano moderati. Che però è brutto, però, un blog commenti moderati, appunto, è brutto. Io la vedo un po' come una limitazione alla fine della mia libertà di poter dire quello che voglio. Il bello dello strumento è che si crei subito il flusso dei commenti che rispondono fra di loro. Esatto. Però vedi, Andrea, io penso che siamo in mano a persone come te il nostro futuro, cioè persone che studiano l'aspetto giuridico legato all'espansione informatica del sapere e ricostruiscano lo strumento, perché sennò altrimenti con la vecchia maniera per misurare queste cose non si può naturalmente entrare a ragionare di questioni legate alla rete. Quello che spesso non si è ancora capito che in realtà ormai l'uso della rete, dei computer, non è più una cosa che ha a che fare con gli informatici, che sono un po' come i meccanici che ci aggiustano l'automobile, ma ha a che fare con il diritto e con la società in senso largo e ampio. Quindi i tecnici, paradossalmente, a questo punto non sono più o non sono solo gli informatici, ma sono, io credo, soprattutto i giuristi, che sono quelli che nei prossimi anni, speriamo, consiglino i politici, e speriamo soprattutto che i politici ascoltino, per dare norme che non blocchino lo sviluppo, perché rischio anche quello di bloccare lo sviluppo della rete nel nostro paese. Ok, noi abbiamo finito, Andrea, grazie mille. Andrea Rossetti, io penso che un passo avanti si farà quando non leggeremo più sui giornali: scende in piazza il popolo della rete. Non scende in piazza il popolo della rete, scendono in piazza delle persone che hanno un loro parere riguardo una certa norma giuridica. Grazie a Valerio Rocchetti, grazie a Fabrizio Intonti, ci sentiamo domani. Alors tous deux on est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.